All'inizio del 1998, Bill Gates non poteva immaginare ciò che stava per accadere. La Microsoft era all'apice della sua potenza, con un fatturato che sarebbe arrivato a 14,5 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, dei profitti in continua crescita, una valutazione di mercato sempre più elevata, più di 27.000 dipendenti e una quota di mercato dei sistemi operativi che copriva oltre il 90% di tutti i PC e portatili. All'epoca, Microsoft aveva una tale liquidità che aveva pensato addirittura di investire a Hollywood, dopo aver inviato il suo Chief Technology Officer e negoziatore principale, Nathan P. Myhrvold, a trascorrere una settimana di studio con il cofondatore di DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. È proprio in quel periodo che sono andato a trovare Gates nel suo ufficio di Redmond, nello stato di Washington. Nel corso dell'intervista gli ho chiesto di descrivere il suo incubo da competizione. Qual è la sfida che teme di più? Ha dondolato un po' avanti e indietro sulla sedia e ha riflettuto in silenzio sulla domanda. Quando si è deciso a parlare, non mi ha snocciolato il solito elenco dei principali concorrenti e non ha neppure citato il governo federale. Ha detto: «Ho paura di qualcuno che lavora in un garage per inventare qualcosa di totalmente nuovo». Non aveva idea di dove potesse trovarsi quel garage e neanche in quale paese e non immaginava nemmeno la natura della nuova tecnologia. Sapeva solo che l'innovazione era quasi sempre il peggior nemico delle aziende consolidate. Sta di fatto che nel 1998, in un garage della Silicon Valley, l'incubo di Bill Gates ha preso corpo per merito di Larry Page e Sergey Brin. Page e Brin si erano conosciuti 3 anni prima durante un concorso di orientamento per le matricole di Stanford. Avevano molte cose in comune. I loro padri erano professori universitari, le madri lavoravano nell'ambito scientifico, entrambi erano nati nel 1973. Al liceo si erano infatuati dei computer, entrambi volevano conseguire il dottorato in informatica. Avevano in comune quella che John Battelle definiva una convinzione ragionata che qualunque sia lo status quo è sbagliato e ci deve essere una soluzione più valida. Entrambi avevano un'inclinazione ad allargare i confini senza chiedere il permesso. La tesi di fondo del libro di Norman è che i progettisti di tutto quanto, dai videoregistratori ai computer, a quei contenitori di plastica che sono impossibili da aprire, non si mettono quasi mai nei panni dei consumatori. Creano dei prodotti che sono eccessivamente complicati e confusi. È il paradosso della tecnologia, scriveva l'autore. La maggior funzionalità si accompagna generalmente a una maggiore complessità. Quest'idea ossessionava letteralmente Larry. Anni dopo, egli ha definito fondamentale il libro di Norman e ricordava di essere rimasto profondamente colpito dal concetto che le persone sono totalmente concentrate sugli aspetti esteriori, anziché sulla funzionalità delle cose. Lo fa ancora imbestialire soggiornare in un albergo e non riuscire a capire in meno di 3 minuti come si spengono le luci. Il libro di Norman ne aveva rafforzato l'approccio alla progettazione del motore di ricerca Google, che era esattamente opposto a quello adottato da motori di ricerca preesistenti, come AltaVista. Se digitavate la parola University su AltaVista, vi venivano fuori tutti i testi che contenevano la parola University, senza classificarne il valore o valutare l'uso effettivo dei link. Di fronte alla stessa ricerca, Google si affidava all'intelligenza collettiva degli utenti ed elencava le prime 10 università. Pensare che i clienti o gli utenti abbiano sempre ragione e il tuo obiettivo sia costruire dei sistemi che lavorano per loro in modo naturale è un atteggiamento molto positivo, ha detto Page. Puoi sostituire il sistema, ma non puoi sostituire l'utente. Page e Brin volevano costruire un motore di ricerca efficace che non facesse perdere tempo agli utilizzatori. L'uso efficiente del tempo era decisivo per loro. La trovata geniale di Page e Brin, scriveva Battelle in The Search, il suo libro sulla storia dei motori di ricerca, è la creazione di un algoritmo, denominato PageRank dal nome di Larry, che è in grado di tener conto del numero di link presenti in un determinato sito e del numero di link che portano a tutti gli altri siti. Anziché affidarsi unicamente alle parole chiave, come facevano gli altri motori di ricerca, PageRank effettuava un'analisi dei link, conteggiando i siti visitati con più frequenza dagli utenti e collocandoli in cima ai risultati della ricerca. Page e Brin erano convinti che questo approccio, basato sulla saggezza delle folle, fosse un mezzo più obiettivo per valutare le pagine web maggiormente importanti. L'obiettivo era ottenere risposte più precise ai quesiti di ricerca. I cofondatori di Google avevano capito una cosa importantissima. Avevano sviluppato una formula che avrebbe legato la crescita del loro motore di ricerca alla crescita complessiva del web. Avevano bisogno di un'enorme capacità di elaborazione per effettuare ricerche istantanee e di server giganteschi per immagazzinare milioni di pagine web indicizzate. Il nuovo motore di ricerca, chiamato inizialmente BackRub, era circondato da un alone di segretezza. Ossessionati dal precedente storico di Tesla, che aveva inconsapevolmente regalato le sue invenzioni condividendole con altri, Page e Brin custodivano gelosamente gli algoritmi che avevano dato vita a PageRank. Il database analizzato da Page e Brin era composto da 24 milioni di pagine web. Una ricerca tipica durava da 1 a 10 secondi. Avevano scelto il nome Google per sostituire Backrub, perché è lo spelling comune di Google, ossia 10 alla centesima potenza, e risponde bene al nostro obiettivo di costruire dei motori di ricerca in grado di operare su vastissima scala. Il loro studio affermava che la nuova tecnologia di ricerca offriva due caratteristiche importanti che l'aiutano a produrre risultati ad alta precisione. La prima è l'utilizzo della struttura dei link di internet al fine di calcolare una classifica di qualità per ciascuna pagina web. Questa classifica prende il nome di PageRank. La seconda è l'utilizzo dei link. Il loro documento derideva i motori di ricerca che erano diventati commerciali e orientati alla pubblicità, e offriva un esempio di come il modello di business incentrato sulla pubblicità non potesse fornire una ricerca di qualità agli utenti. Supponete, scrivevano, che un utente digiti nella finestra di ricerca le parole «telefoni cellulari» e che il primo risultato sia un rapporto sui pericoli dell'uso dei cellulari alla guida. Benché questo risultato potesse essere giudicato importante dal loro algoritmo PageRank, avrebbe verosimilmente suscitato le proteste degli inserzionisti che reclamizzavano i telefonini. Perciò, concludevano, riteniamo che i motori di ricerca finanziati dalla pubblicità siano strutturalmente orientati a favore degli investitori pubblicitari e trascurino i bisogni dei consumatori. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Ken Auletta, Effetto Google, la fine del mondo come lo conosciamo. Garzanti Editore, 448 pagine, €19,60. A 70 km da Praga c'è un monastero fondato nel 2007 da religiose italiane. È in mezzo alla campagna, vicino al fiume Moldava, e sembra un'oasi nel deserto di verde che lo circonda. Eppure ogni tanto un passante o un turista solitario bussa incuriosito alla porta delle monache, attirato dai canti delle preghiere delle ore. Da Praga sono 70 km di strade sempre più deserte, colline e pascoli e rari villaggi silenziosi. La regione più secolarizzata d'Europa, dove il 60% della popolazione si dichiara atea. Finalmente un cartello. Nel fondo di una vallata, bianco, tutto nuovo, ecco il monastero. È una fondazione delle trappiste di Vitorchiano, dedicata a Nostra Signora della Moldava, il grande fiume che scorre poco lontano. Sono arrivate in 9 dall'Italia nel 2007. Oggi sono già in 19, tutte vocazioni di giovani ceche, ragazze cresciute nella ex Cecoslovacchia comunista. Guardi dall'alto, con stupore, fra i boschi e la nebbia, il cantiere è ancora aperto. Che cosa strana. Come un seme gettato nel fondo di questa terra dimenticata. Alle 3 del pomeriggio le suore recitano la nona nella cappella non del tutto compiuta, tra la calce e le cazzuole dei muratori. Bianche nel coro di legno scuro cantano. Hanno voci belle che echeggiano fra le pareti spoglie. L'armonia ti colpisce. Dopo chilometri di villaggi senza nessuno, la bellezza di questo canto nel silenzio della Boemia commuove. La superiora è di Adria, provincia di Rovigo. A Vitorchiano avevamo tra noi alcune sorelle cieche. Il cardinale Volk, allora arcivescovo di Praga, venne a trovarci. Espresse il desiderio di una fondazione in Boemia. Noi eravamo più di 80. Ma occorreva un terreno, occorrevano soldi e non avevamo niente. Appena arrivate, quando ancora non c'era nulla, abbiamo celebrato la prima messa nei campi. Il cardinale Volk è venuto a benedire il cantiere. Infine siamo arrivate un giorno in auto da Vitorchiano, dietro di noi un camion carico di materassi. Era il 23 aprile 2007, quando abbiamo dormito nella foresteria per la prima volta e pensavamo, tra questi boschi, senza neanche un'inferriata alle finestre, di avere paura. Invece no. Io mi sentivo custodita dal tabernacolo col Santissimo che ci eravamo portate dall'Italia. È lui il padrone di casa qui. La sera scende sul monastero e lo avvolge in una nebbia più fitta. Poi solo l'abbaiare di un cane nella notte, fino al primo tocco della campana. È ancora buio alle 4:15. Le monache della cappella recitano il mattutino. In quante sono giovani sotto il velo. Marcheta, una postulante ancora senza abito, ha due trecce castane che la fanno sembrare una bambina. Se ne escono silenziose in fila verso il refettorio. Ora et labora. I monasteri benedettini devono mantenersi, c'è l'orto e si sta costruendo una cioccolateria. Il lavoro, cadenzato dalla preghiera a ore fisse, come scandito da un altro orologio. All'apparenza, un monastero di clausura qui è un'isola nel deserto. Eppure no. Madre Lucia racconta come nelle domeniche d'estate i boemi che vanno a fare il bagno nella Moldava, incuriositi dalla scritta Trappistki Cluster, vengano a bussare. Ci domandano: «Che cosa fate qui? Allora li invitiamo ad assistere alla nona o ai vespri». Restano ad ascoltare e alla fine ci dicono meravigliati: «Come sono belli i vostri canti e le parole che cantate! Ma che cosa sono? Non le abbiamo mai sentite!» Una giornalista locale è venuta a vedere, poi ha scritto: «Le trappiste sono venute in Boemia a offrirci la bellezza. È la bellezza che colpisce, che suscita meraviglia», dice Madre Lucia. «Ma tu hai in mente le periferie di Praga, un'ora da qui? Che senso ha un monastero trappista qui? E come può incidere in questa terra scristianizzata?» «Noi», risponde la superiora, «dedicandoci a una vita di preghiera nel silenzio, siamo una realtà missionaria». «Ci si può chiedere in che modo?» «È semplice. La più grande delle sofferenze degli uomini è la mancanza di senso della vita e della morte. Solo in Dio l'uomo trova il senso della propria vita. Lo scopo del nostro essere qui è ottenere da Dio per tutti la grazia delle grazie, l'incontro con Cristo. Il nostro fisico essere qui è partecipazione anche concreta, carnale, al desiderio profondo degli uomini di questa terra. Non solo preghiera, ma offerta di ogni istante della nostra vita a Cristo, per amore degli altri che sono fuori, nel mondo. Fuori. Che cosa strana, però. Strano che un giorno, in mezzo a questi campi vergini, sia stata celebrata su due assi di legno una messa, davanti a un grappolo di uomini e donne venuti da lontano. «È stato tutto un miracolo», dice pensosa la madre superiora. «Un miracolo trovare dei fondi e fare l'acquedotto, e poi quando siamo arrivate ricevere da gente mai vista in regalo i mobili di cui avevamo bisogno». L'impiegato dell'ufficio che si assillava con le complicazioni burocratiche, una mattina ce lo siamo ritrovato qui, tra i volontari venuti a piantare i pali nel frutteto. In due anni abbiamo accolto 10 giovani donne cieche. Un miracolo, qualcosa di non tanto diverso da quella delle fondazioni cistercensi che molti secoli fa sorgevano in Europa, in terre imbarbarite, e rincominciavano la storia cristiana. Nella bella chiesa dal tetto di legno, dal basso sembra un'arca alla rovescia. Le monache cantano i vespri alle 5 del pomeriggio. È buio fuori ormai. Gli operai del cantiere hanno finito il turno. Due di loro, le mani ancora sporche, si affacciano alla chiesa. Rispettosamente si tolgono gli scarponi infangati ed entrano, muti, scalzi. Tendono il collo a guardare verso il coro. «Chi canta così?» sembrano chiedersi. «E perché?» Strano che dei manovali stanchi tardino a tornare a casa la sera per ascoltare uno sconosciuto canto. Eppure, quei due rimangono fino alla fine, come sedotti da una bellezza. Il seme piantato nel fondo della Boemia, non visto, germina sotto la prima neve del Natale 2010. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marina Corradi, Preghiera, un seme nella terra più atea, pubblicato da Avvenire del 22 dicembre.